divertenti, dei criceti sorprendenti. Sono come tu li vuoi, si trasformano in eroi. Se per caso sei nei guai, loro ti aiutano, lo sai. Coraggioso e audace, poi parlano proprio come noi. Vanno in giro senza sosta, Master Hans ha la risposta. Per abitare con gli umani, poi ritornano normali. Degli amici strepitosi, sorridenti e favolosi. Master Hans è qui per noi, sono i nuovi grandi eroi. Master Hamster, Master Hamster, si trasformano così. Master Hamster, Master Hamster, super criceti sono qui. Master Hamster, Master Hamster, grandi amici siete sì. Master Hamster, Master Hamster, che avventure abbiamo qui. Master Hamster, Master Hamster, Master Hamster, Master Hamster, Master Hamster, Master Hamster, Master Hamster, Master Hamster. Loro amano i girasoli e dei semi son ghiottoni. Alla faccia un po' furbette, si trasformano in gran fretta. Degli amici strepitosi, sorridenti e favolosi. Master Hamster qui per noi, sono i nuovi grandi eroi. Master Hamster, Master Hamster, si trasformano così. Master Hamster, Master Hamster, super criceti sono qui. Master Hamster, Master Hamster, grandi amici siete sì. Master Hamster, Master Hamster, che avventure abbiamo qui. Voglio cantarli insieme a te, santo. Ok, fammi sentire come sei intonato. Sì, ma cantate anche voi, amici, insieme a me. Siete pronti? Forza, tutti insieme, dai! Master Hamster, Master Hamster, sì.